in primo piano. Un pasticcio, un terremoto, uno psicodramma, ma soprattutto una grande questione democratica che tra appelli a Napolitano, richieste di clemenza alla magistratura e denunce altisonanti, cioè addirittura chi ha detto queste cose non accadevano neppure nella Romania comunista, e stracci che volano tra gli schieramenti e dentro il partitone azzurro, si piazza al centro di Roma e interroga i cittadini, le forze politiche, i principi giuridici. Perché dura l'ex et lex, e tuttavia è mai possibile che davvero uno dei due principali competitor sulla piazza elettorale della capitale, cioè il PDL, venga escluso dalla gara? Così si interroga Mario Aiello questa mattina sul Messaggero. Psicodramma romano, psicodramma in corso tra pasticci e democrazia. Buongiorno a tutti da Gigi Donelli e da Peter Bescapè questa mattina in regia. I titoli dei quotidiani, la questione romana dunque in primo piano. Voto a Roma, lista PDL esclusa, è appunto il Messaggero che oggi inizia appunto il nostro sguardo sui quotidiani. La Polverini dice: intervenga Napolitano. Immaginiamo, come dire, l'orrore oltre allo stupore della candidata del PDL. PD e Bonino dice: rispettate la legge. Regione, il Tribunale respinge il ricorso del centrodestra. Scoppia la polemica ed è l'ira di Berlusconi e Fini per il Corriere della Sera. Non presentata la lista dei candidati al del PDL, dei candidati PDL, quindi la Polverini è a rischio per la candidatura, e si apre naturalmente una polemica che parte peraltro dagli eventi di quella giornata, che poi vedremo tra un momento, dell'assurdo pasticcio appunto di questo sabato di fronte al Tribunale per la presentazione delle liste. Peraltro vedremo da chi questi meccanismi conosce e frequenta da anni. Ma la politica, abbiamo detto, da una parte, dall'altra la grande tragedia che ha investito da una parte il Cile ma anche le coste atlantiche dell'Europa. Taglio centrale del Corriere: inghiottiti dal mare dopo il terremoto, turisti sorpresi dallo tsunami, salgono oltre 700 i morti, ora saccheggi e coprifuoco. Ma anche, e questo naturalmente si riferiva al Cile, la tempesta perfetta fa strage in Francia, almeno 45 persone uccise in Francia da Cinzia, la tempesta perfetta che ha sconvolto l'Europa. Per il Giornale stamattina apre sulla vicenda politica: è semplicemente un partito di matti, PDL escluso dall'elezione a Roma, scrive Sallusti, il vice direttore del Giornale. Dicono che i carabinieri vadano in giro in due perché uno sa scrivere e l'altro sa leggere, falso ma divertente. Anche il PDL i suoi li manda sempre in giro in due, entrambi si presume abbiano i rudimenti della lingua scritta e parlata, viaggia in coppia per un altro motivo. Uno è un ex DN e un altro è un ex di Forza Italia. Si marcano a vista perché è vero che il partito è unico, ma fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. E a furia di marcarsi e controllarsi a vicenda, i nostri eroi si incartano e dimenticano l'obiettivo, quindi quello di presentare la lista in questione. Altro tema a centropagina sul Giornale, ma che ritroviamo sui principali quotidiani in edicola, è la vicenda del 5 in condotta, di cui avete sentito anche delle riflessioni all'interno di GR24. Finalmente la scuola ha imparato il 5 in condotta, scrive il quotidiano milanese. La riforma funziona, record insufficienze, è la cura, dice, per una generazione che non conosce la parola bocciato. La Stampa di Torino: è catastrofe Cile, 700 morti. Sono due immagini di fatto a titolare la prima del quotidiano torinese, quella dei poliziotti in mezzo alle macerie, la didascalia dice che cercano i corpi addirittura delle vittime tra le macerie, e poco sotto, appena sotto, la Francia, persone che nel giorno dopo, quindi in una situazione che si vede chiaramente tranquilla ormai, addirittura il sole, persone che circondano una zona cintata dalla polizia e guardano increduli i danni causati dalla tempesta in Vandea. Increduli perché di fatto non è altro che una piattaforma di quelle che normalmente servono, accompagnano le passeggiate sulla costa, le passeggiate appunto nelle località marittime, ma questa è completamente devastata, come sbriciolata per decine di metri dalla furia del vento e delle onde naturalmente. La politica sempre in primo piano, lista PDL fuori l'ira di Fini e di Berlusconi, insomma il tema ormai l'abbiamo individuato. Ma anche nel taglio basso per la Stampa una segnalazione importante che riguarda l'immigrazione, la protesta, la manifestazione degli extracomunitari e gli immigrati che incrociano le braccia. Oggi è il D-Day, 1 marzo, dunque 24 ore senza migranti, uno sciopero proiettivo è stato definito, una provocazione culturale, un'idea forte, un atto creativo. Nessuno però si aspetta di tirare le somme stasera stilando cifre di chi si sarà astenuto dal lavoro, da chi no. Però il punto non è evidentemente quello, ma da quanto spiegano gli organizzatori, di invitare e soprattutto noi italiani a riflettere sul processo appunto di trasformazione della società e anche sull'importanza precisa in una giornata come questa del lavoro, del appunto assicurato dai lavoratori stranieri. Repubblica, ancora il Cile in ginocchio, altre 100 scosse, già 700 morti, saccheggi nelle città e naturalmente il richiamo anche altro oceano, quindi ci spostiamo dal Pacifico all'Atlantico. Tempesta devasta la Francia, 52 le vittime e naturalmente anche per Repubblica la vicenda politica. Il Sole 24 Ore del lunedì, un approfondimento sulla finanza locale, la dinamica dei costi nei comuni, tasse ferme ma le tariffe corrono, aumenti fino al 30% per acqua e raccolta rifiuti, non buone notizie dunque. Asili nido e trasporti invece in linea con l'inflazione. I numeri emergono dal rapporto 2009 che sarà presentato solo giovedì prossimo dall'IFE, la fondazione dell'ANCI, quindi dei comuni italiani, che analizza l'economia e la finanza locale. I tecnici propongono anche le prime stime sull'attuazione del federalismo fiscale. Dai costi standard non dovrebbero arrivare clamorosi cambiamenti o rivoluzione. La rivoluzione è invece collegata alla meritocrazia dei conti, che potrebbe offrire premi consistenti agli enti del nord, soprattutto Lombardia e Veneto. Tutto dipende però dalle scelte politiche su come considerare il peso del contesto socio-economico. Questo per il Sole 24 Ore del lunedì, che offre anche un approfondimento sulla rinnovata caccia, non oserei dire nuova, ma rinnovata senz'altro, caccia all'oro nero, la caccia ai giacimenti. Riparte dunque la caccia all'oro nero ora che la Gran Bretagna annuncia di voler riprendere le ricerche petrolifere nelle isole Falkland, Malvinas, ricordate, Atlantico ancora una volta, qui siamo al largo delle coste argentine e con naturalmente la storia che incombe con addirittura la guerra degli anni 90. In molte aree mondiali, dal Venezuela alla Siberia, si c'erano giacimenti con ingenti risorse potenzialmente paragonabili a quelle del Faya in Iraq. Secondo l'ente geologico degli Stati Uniti d'America, il tesoro vale 662 miliardi di barili di greggio e oltre 190 mila miliardi di metri cubi di gas, tutti ancora da sfruttare, dunque è nuovamente caccia. Infine una segnalazione ancora dalla prima del Sole 24 Ore, i temi della sicurezza, i reati in calo nel 2009, meno 6%, crescono gli arresti, il titolo è tra furti, scippe e truffe, 7.000 denunce al giorno. Ecco, queste sono diciamo le prime pagine, le prime pagine che vi segnaliamo. C'è naturalmente spazio anche a quelli che sono i temi sportivi, mi basterà come dire sintetizzare da un lato soprattutto ovviamente i quotidiani del nord milanesi su Inter e Milan che sprintano, su Inter e Milan che vanno avanti in qualche modo aprendo una questione a due, mentre sul Messaggero rabbia Roma, due gol non bastano, il Napoli strappa il pari. Eccoci qua, 7:41 minuti, dunque vi ho letto qualche passaggio del commento in prima sul Messaggero di Mario Aiello, dunque lo psicodramma romano. Vediamo allora dalla voce del protagonista, di uno dei almeno dell'involontario protagonista di questa vicenda. Io minacciato, non mi hanno fatto rientrare. Questa dunque sarebbe la spiegazione di chi come diciamo chi è indicato come responsabile di questa vicenda assurda. Ex Partito Socialista, presidente del 19° municipio della capitale, sì, ero andato a mangiare un panino, anzi no, sono molto confuso. Allora sentiamo questo signore, stia calmo, è agitato, tutto questo avviene durante una conferenza stampa in cui si cercava di chiarire i fatti e lo intervista il collega del Corriere Fabrizio Roncone. Sì, sono arrivato con mezz'ora d'anticipo, diciamo verso le 11:30, allora è andato fuori perché è uscito sostanzialmente? Per fare qualche modifica? No, no, nessuna modifica. Sì, no, insomma, agitazione. Poi dica, lo giuro, non volevo apportare modifiche. Mi deve credere, capito? Il collega dice, sì, sì, la credo, le credo. Però cosa significa? È andato davvero a mangiarsi un panino? Un panino? Sì, sono andato a mangiarmi un panino. Non mi pare grave, no? No, però io a mangiare, insomma, un momento di grande confusione e una... equivoco a quanto pare con il collega appunto di N con cui il signor Miglione appunto deve conferire i documenti e poi insomma questa intervista si conclude così. Senta, a parte che la fila avrebbe dovuto farla Giorgio Polesi, l'altro rappresentante del PDL, lei deve scrivere che io sono solo un pesce piccolo, un piccolo presidente del 19° municipio qui a Roma. La politica è sempre stata la mia passione. Cominciai come socialista, ho proseguito dentro Forza Italia. Ero e resto un pesce piccolo. La conferenza stampa, aggiunge Roncone di Renata Polverini, è finita da pochi minuti. Alfredo Miglioni sta parlando a capochino, le mani tremano, lo sguardo è lucido. All'improvviso dal palchetto rimbomba giù una voce dura: stai zitto Miglioni, devi stare zitto. Miglioni fa appena in tempo a far fugliare ancora qualcosa, poi viene letteralmente sollevato dal pavimento da un signore muscoloso che con modi spicci lo infila dentro una stanza. L'invito a tacere gli è stato rivolto da Alfredo Pallone, parlamentare europeo, vice coordinatore regionale del PDL nel Lazio. Sono stato un po' brusco, si spiegherà più tardi questo altro signore, lo so, ma Miglioni dopo quello che è accaduto non è lucido. La situazione è delicatissima e lui può straparlare. Ieri, quando ha capito cosa era successo, mi ha detto addirittura io mi suicidio. Sta messo così, poveraccio, e c'è da capirlo dopo quello che ha combinato. Questo almeno una parte, una possibile spiegazione, mentre come avete visto anche insomma dalle breve citazioni dei titoli c'è già chi parla di complotto e chissà. In primo piano. Sono stati due minuti interminabili, tra finestre che cadevano, cornicioni che si staccavano, chiese che perdevano i campanili, muri che scricchiolavano e poi venivano giù e il terreno che si apriva con fessure ampie e profonde. Luis Sepúlveda, scrittore cileno, nato in Cile nel 49, è come molti espatriati cileni in queste ore attaccato ai telefoni, raccoglie in qualche modo e sintetizza quello che poi noi vediamo attraverso le immagini televisive, le impressionanti immagini che arrivano appunto dalla costa del Pacifico, della costa appunto Pacifico del Sud America, un mare che, come hanno confermato proprio questa mattina, diciamo prima dell'alba italiana, le autorità cilene, lungo in alcuni tratti della costa è avanzato di 400 metri, divorando letteralmente ciò che ha trovato sulla sua strada. Scrive Sepúlveda: ora, meno di un giorno dalla tragedia, sappiamo che la bella città di Concepción, la perla del Sud, quasi non esiste più, che la parte antica e coloniale di Curicó è ormai solo un ricordo e non si arrestano le telefonate di amici che raccontano la devastazione. Eppure, nel pieno della tragedia, superando la paura, le cilene e i cileni hanno dimostrato una volta di più il loro aspetto di popolo organizzato e solidale. Così scrive dalla prima di Repubblica questa mattina Sepúlveda, le testimonianze di una reazione composta, organizzato, anche in presenza di alcuni episodi che sono stati segnalati da tutti i quotidiani, di saccheggi, di agitazione, in realtà sembra emergere in queste ore. Così come spaventa ciò che è accaduto prima del fine settimana in Francia, dove appunto il ciclone Cinzia ha provocato devastazione. In questo caso Meteo France, scrive Valentina Cordon su Repubblica, aveva emesso bollettini di massima vigilanza per il rischio di venti violenti. Non a caso il sistema francese di allerta meteo è stato perfezionato dopo la mancata corretta previsione della tempesta Lothar e Martin, in cui i venti superiore a 200 km spazzarono l'Europa nel 99. Anche ieri il vento ha soffiato fino a 240 km orari sui Pirenei, ma la maggior parte delle vittime è stata causata dalle estese improvvise inondazioni sulle zone costiere. Sono effetti che possono far pensare agli uragani, fenomeni però ben più intensi e devastanti che si verificano solo sulle zone tropicali. Insomma, questa la... situazione sulle coste atlantiche per questi eventi che hanno investito Portogallo, Spagna e in particolare Francia. Ecco, raffiche, cambiamo completamente argomento, raffiche in questo caso di 5 in condotta, 63.000 rischiano la bocciatura. Una riflessione che prendiamo questa mattina dal Secolo XIX di Genova: il rischio, tanti somari ben educati, le amebe non possono meritarsi il 10. Insomma, il voto in condotta è cambiato, il voto in condotta è tornato, tutti sono più o meno contenti, nel senso che comunque emergeva con chiarezza l'esigenza di rimettere al centro delle dinamiche anche scolastiche la condotta, dopodiché ci si chiede come usare questo strumento, perché se è vero che già tendiamo ad impallidire di fronte a un 7, poi scopriamo che naturalmente se lo misuriamo sul metodo di tutti gli altri voti, un 7 assume tutta un'altra prospettiva. Ma allora come va utilizzato? Un'intervista, un'educatrice, Monica Molfino, professoressa di liceo appunto nel genovese: c'è un rischio, dice, il voto della condotta e quello delle altre materie sono valutate in scala decimale, da 1 a 10. Un voto alto in condotta può alzare i voti delle altre materie, dove magari lo studente è meno brillante. Insomma, dice la collega che l'ha intervista, da questa riforma del 5 in condotta potrebbero nascere dei somari, ma molto disciplinati. Dice, può succedere, e questo non è l'obiettivo che si deve porre la scuola. Il 10 o un voto comunque alto deve essere al contrario il prodotto della capacità degli studenti di mettersi in relazione con i compagni, con i professori. Condotta e rendimento devono essere due cose intrecciate che vanno di pari passo, non si possono considerare in alcun modo due cose separate, anche se comunque è positivo, anche in questo caso, dice l'addetta ai lavori, la professoressa, il fatto che dopo anni si sia tornati a considerare la condotta come un fattore determinante per la formazione. Su questo punto sembra che ci sia un largo consenso una volta tanto. In Italia, 7.52, ancora un minuto. Cosa succede se scioperano gli immigrati? Si chiede oggi il Foglio. Sono più di 4 milioni, da loro dipende il 9,5% del nostro PIL. Lo stesso tema per il giornale, il titolo è una regia europea dietro al primo sciopero degli immigrati. In realtà è uno sciopero sui generis, è più un'affermazione di orgoglio, si direbbe. Primo marzo più rosso che giallo, scrive il giornale, perché il giallo è il colore scelto appunto da questa organizzazione, che è sicuramente transnazionale e che sul fronte europeo parte dalla Francia per manifestare queste posizioni. E allora concludiamo proprio dalla Francia, oggi l'apertura del Le Monde, il quotidiano parigino, invece è il titolo principale: immigrazione, il testo della giornata senza di noi, quindi i collettivi, qui vengono definite con un termine che evoca altri tempi, vogliono dimostrare il peso dell'immigrazione nella società europea. E direi che su questo punto ancora ci fermiamo su questo tema, che naturalmente continueremo a seguire all'interno di GR24. Io vi ricordo che subito dopo GR l'appuntamento di Bianco e Nero oggi è condotto da Irene Zerbini. Il tema è quello del voto agli italiani all'estero. Secondo voi la legge va modificata? Le vostre risposte naturalmente sul web e tra poco in diretta. Un saluto a tutti. Soldi e dintorni. E ritorna Soldi e dintorni con Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti e buon inizio settimana a tutti. Allora, lo sapete, per chi ci segue tutte le mattine avrà capito che la nostra redazione è sempre piuttosto sensibile alle questioni ambientali. Stiamo diventando sempre più attenti al verde ed ecco uno dei motivi per cui oggi abbiamo deciso di parlare di prodotti alimentari biologici e del nuovo logo che dal prossimo luglio li identificherà a livello europeo, il cosiddetto Leaf Label, o meglio l'Euroleaf, la foglia verde del l'euro. E quindi un tema molto interessante. Ci sono molti appassionati del settore nel nostro paese, molte aziende che hanno una vocazione biologica e molti appunto consumatori di questi prodotti. Questo peraltro, ve lo segnalo, è anche il tema delle pagine di Affari Privati del Sole 24 Ore in edicola oggi. Questo è un tema che è stato affrontato questa mattina per darci tutte le novità normative dall'avvocato Dario Dongo, che firma anche le pagine del Sole. L'avvocato Dongo è responsabile delle politiche regolative di Federalimentare. Federalimentare, lo ricordo per chi non conoscesse questa organizzazione, rappresenta e tutela l'industria alimentare italiana. Avvocato Dongo, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Ho detto tutto correttamente anche per quello che riguarda la sua carica? Sì, è tutto corretto. Benissimo. Allora, dal 1 luglio questo marchio, questa foglia stilizzata formata da stelline che simboleggiano l'Unione Europea, dovrà essere applicato su tutti gli articoli alimentari preconfezionati prodotti nell'Unione Europea, prodotti che vogliono qualificarsi come biologici. Ma la funzione di questo marchio, di questa etichetta, avvocato Dongo, qual è? Ma la principale funzione è quella di dare un segnale chiaro in tutta Europa a tutti i consumatori europei, sia per quanto riguarda i prodotti realizzati in Europa che opzionalmente su base facoltativa per quelli che derivano da paesi extra UE, circa il metodo biologico, appunto. Quindi non avremo più bisogno di guardare tanti diversi differenziati marchi nazionali, privati, ma ci potremo riferire a questa Eurofoglia, la Euroleaf, sapendo che dietro di essa vi è una certificazione, vi è una garanzia dell'attuazione di un metodo che ormai è consolidato nella nostra legislazione e che vale appunto a esprimere l'idea, e non solo l'idea ma anche la pratica, tecniche agricole e metodi produttivi che garantiscono l'assenza di utilizzo di sostanze chimiche di sintesi. Quindi certo, una garanzia molto importante per il consumatore, ma fino a questo momento, a prescindere diciamo da questo nuovo marchio europeo, quindi da questo rafforzamento anche se vogliamo in termini proprio di tutele, nel nostro paese come erano identificati questi prodotti, avvocato Dongo? Beh, in effetti nel nostro paese avevamo già un marchio nazionale, un marchio un po' più complesso da un punto di vista grafico, ma nel quale comunque si riportava metodo biologico, al quale si accompagnavano e si accompagnano spesso anche i marchi o le citazioni degli enti di certificazione che hanno garantito il controllo sia sull'azienda, quindi nei campi, a partire dai residui di pesticidi, residui di sostanze chimiche nei campi, sino al processo, all'azienda stessa e ai prodotti, infine, che si trovano sul mercato. Il mercato, io vorrei dare qualche cifra, tanto per capire di che cosa stiamo parlando in Italia. Noi abbiamo almeno 1 milione di ettari coltivati a bio nel nostro paese, abbiamo più di 50.000 aziende biologiche, l'Italia è il primo paese produttore in Europa, dove sono italiane il 37%, delle imprese, è il terzo al mondo dopo Australia e Argentina. Avvocato Dong, adesso lei fa l'avvocato, non fa naturalmente, come dire, l'addetto ai lavori, però sono cifre che parlano da sole. Come mai questo successo nel nostro paese? Come ve lo spiegate in Federalimentare? Beh, certamente abbiamo un'attenzione crescente da parte del consumatore. Il consumatore è la variabile indipendente del mercato e quando orienta le proprie scelte in una data di direzione come il biologico, ma come anche l'ecolabel o il fair trade, che sono pure altri marchi dei quali si parla oggi sull'articolo del Sole, sì, la pagina del Sole, evidentemente anche il mercato, anche l'area produttiva reagisce, si adegua e quindi cerca sempre di rispondere alle esigenze dei consumatori. Oltre alla certificazione biologica vi sono anche un numero crescente di certificazioni per quanto riguarda la lotta evitata, che non esprime la totale assenza di utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, ma la riduzione concreta, misurata, proprio con l'idea di offrire, in particolare per i prodotti ortofrutticoli freschi, al consumatore una affidabilità, l'idea che vi siano meno sostanze chimiche nei prodotti, i prodotti quindi possano essere di un maggiore interesse, meglio indirizzare meglio esaudire i desideri dei consumatori. Allora, ammettendo che io sia titolare di un'azienda che produce mele biologiche, avvocato Dongo, come posso fare per richiedere questo marchio di cui stiamo parlando questa mattina? È lungo l'iter da seguire per conseguire questa licenza, chiamiamola così, la licenza Leaf Label? L'iter in effetti è piuttosto lungo, non tanto ai fini strettamente dell'ottenimento della licenza, quanto piuttosto per la preparazione dei campi. Infatti vi sono delle regole che attengono anche alla conversione dell'agricoltura da metodo tradizionale a metodo biologico e questo comporta una cultura, comporta il bisogno per l'operatore, per il coltivatore di mele anche di apprendere tecniche agronomiche di preservazione delle colture che sono diverse da quelle relativamente tradizionali che passano per l'utilizzo di sostanze chimiche. E un'azienda che costi deve sostenere per ottenere questa certificazione? Perché lo sappiamo bene, nonostante il successo, nonostante il largo consumo che i consumatori italiani fanno di questi prodotti, sono comunque prodotti che costano un po' di più, certo, di quelli tradizionali. Quindi non è che poi magari un'azienda che opera in questo comparto sarà autorizzata a caricare un pochino i prezzi, avvocato? Purtroppo questo è il problema che noi consumatori riscontriamo ogni giorno allorché andiamo a fare la spesa e notiamo come il costo, il prezzo finale del prodotto biologico è sensibilmente più elevato. Dietro a questo che cosa si cela? Anzitutto il costo della certificazione è molto ridotto. Secondo dati di Confagricoltura del 2009 il costo medio di una certificazione che viene rinnovata annualmente per il bio è intorno ai 250 euro e sono costi quindi tutto sommato contenuti che non dovrebbero essere scaricati poi sui consumatori. L'aspetto che più invece segna la variante di costo è dato dal fatto che i metodi di protezione naturale del suolo e dei suoi frutti non sono talora efficaci come quelli chimici, come quelli tradizionali. Pertanto porto anche un esempio di famiglia: avendo un cognato che produce vino Chianti biologico, non è stato in grado di reggere l'urto di un parassita, la Pronosfera, che l'anno scorso gli ha fatto perdere il 60% del raccolto. È evidente che con queste forti riduzioni di raccolto, che talora intervengono per fatti esterni che non si riesce a mitigare con il metodo biologico, l'aumento dei prezzi può essere in certa misura mitigato. Non è escluso poi che vi siano anche delle speculazioni. Infatti dobbiamo sempre tenere le antenne ben dritte. Avvocato Dongo, io tra un secondo devo salutarla, le faccio però un'ultima domanda: secondo lei quali saranno i primi prodotti che vedremo sui banchi del supermercato oppure nei negozi specializzati con questo marchio? Ma io penso sicuramente gli marchi europei, sì. Sicuramente gli ortofrutticoli, perché hanno un ciclo di vita molto breve, tanto in fase di produzione industriale, quindi anche di confezionamento, quanto poi di vendita, quindi sono quelli soggetti a più frequente rinnovo delle etichette. Saremo poi anche prodotti della prima trasformazione. Benissimo, grazie all'avvocato Dario Dongo di Federalimentare, buona giornata. A presto. Buongiorno. Per tutti coloro che vogliono saperne di più sulla nuova etichetta europea dei prodotti biologici, naturalmente vi rimando alle pagine di Affari Privati del Sole 24 Ore questa mattina. Sole 24 Ore che pubblica anche un articolato speciale sulle carte di credito, che è tema che noi oggi rubiamo per Salva Danaio, in onda alle 12:15. Io vi ringrazio per essere stati con noi a Soldi e Dintorni. Vi lascio adesso a Bianco o Nero con Irene Zerbini. Buona giornata. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero. 32 minuti dopo le 8, buona giornata da Irene Zerbini. 95%, questa la percentuale siderale di coloro tra gli ascoltatori di Radio 24 che vorrebbero vedere, secondo la domanda che abbiamo posto oggi, una modifica alla legge elettorale che ha sancito la possibilità per gli italiani all'estero di votare per il Parlamento italiano. Volete partecipare alla nostra discussione? Siete benvenuti. 800 24 00 24, questo è il numero gratuito, o ancora con la nota modalità dei messaggi SMS 349 238-6666 e potete votare, ve lo ricordo, all'indirizzo www.radio24.it fino alle 13. Noi partiamo con un volo e partiamo in volo in qualche modo. Il volo è quello per l'Australia, un biglietto aereo transcontinentale, niente meno che per l'Australia, per fare luce su brogli presunti che sarebbero avvenuti nel corso della prima elezione politica degli italiani all'estero. Fu il volo del procuratore di Roma Giovanni Ferrara che aprì un ennesimo fascicolo su presunti voti taroccati. Questo questo solo per ricordarvi che le irregolarità legate a questa modalità di elezione risalgono a ben prima del grande scandalo che in questi giorni occupa i titoli dei giornali e che riguarda il senatore Nicola Paolo Di Gerolamo, eletto per il PDL nella circoscrizione Europa, è finito appunto sotto inchiesta a Roma. Anche qui, prima di questo grande scandalo per cui oggi tutti si strappano le vesti, proprio per irregolarità, per il certificato di residenza in Belgio alla base della sua candidatura che sarebbe risultato falso. Il ricorso però alla giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato era stato bocciato. Con questa vicenda come sottofondo, oggi abbiamo invitato tutte persone che all'estero votano o hanno votato o avrebbero diritto di votare e non lo fanno proprio per questioni di convinzione. Non sono solo italiani, dunque ringrazio e saluto insieme a noi un cittadino statunitense, Aaron Mains, scrittore americano, residente a Milano, collabora col Wall Street Journal, col New York Times. Buongiorno Aaron, benvenuto. Buongiorno. E lui dall'Italia vota all'estero, proprio così. Insieme a noi anche Giuseppe Tizza, che vive in Germania, ex insegnante, vive a Düsseldorf da 40 anni per l'esattezza. Buongiorno, benvenuto professor Tizza. Buongiorno Irene. E Antonio Nicaso, giornalista e professore universitario, vive in Canada, è in Italia per presentare La Malapianta, il nuovo libro insieme al Nicola Gratteri, uscito proprio recentemente, sta facendo il giro in Italia per presentarlo, autore anche di Fratelli di Sangue. Benvenuto Antonio Nicaso. Buongiorno Irene. E insieme a noi la testimonianza anche di qualcun altro che vota dall'estero e fa votare dall'estero, cioè il viceconsole filippino a Milano Gerardo Abiog, con il quale ci collegheremo più tardi. Ma partirei proprio da Aaron, dal giornalista del Wall Street Journal, in quanto cittadino di un'altra nazione che consente la possibilità di votare dall'estero. Per esempio, tu Aaron hai votato dall'Italia, in quali occasioni? Più recentemente nelle elezioni per il presidente, e per Obama nel mio caso, ma insomma per... Come hai dovuto fare per esercitare questo diritto di voto in quanto cittadino statunitense all'estero? Allora, mi sono recato qui a Milano, in Piazza San Babila, dove c'è la sede del Partito Democratico, al quale faccio parte io. Lì forniscono una specie di lettera per le votazioni, una scheda che uno compila e poi bisogna chiuderlo nell'apposito busta e lo consegna a loro, che consegnano a loro volta tutti insieme al consolato, che poi dal consolato viene portato negli Stati Uniti. Ma tu sei stato convocato, ti è arrivata una lettera a casa in quanto cittadino statunitense o hai dovuto manifestare la tua intenzione di votare e dunque iscriverti? Ma diciamo che entrambe le cose sono vere. Quando voto per qualcosa di più locale nel mio stato, ossia la Connecticut, allora ho dovuto registrarmi come residente all'estero, fornire un indirizzo al quale veniva e verrà anche in futuro spedito la scheda. Invece per quello elettorale del presidente girano un po' di email, gira un po' di informazione che chi vuole votare tramite il partito, che forniscono questo servizio, di solito il cittadino che deve portare la scheda direttamente al consolato. E dunque, come avete sentito, questo non è l'unico esempio, sono diverse le nazioni che consentono ai propri cittadini residenti oltre confine di votare, di esprimere una preferenza. Però la legge Tremaglia, cioè la legge che permette agli italiani all'estero di votare, ha un unicum, ha una peculiarità senza uguali. Antonio Nicaso, qual è? Ma si vota per corrispondenza e naturalmente questa metodalità di voto mette in seria discussione il principio della segretezza. Io ti faccio un esempio: io per ragioni di sicurezza non ho il mio indirizzo che registrato da nessuna parte, quindi ho ricevuto il plico a casa di mia suocera e l'indirizzo di mia suocera è finito nelle mani di decine e decine di candidati, perché poi con metodi molto discutibili per fare campagna elettorale sono state diffuse le liste di tutti gli elettori e gli indirizzi di tutti gli elettori, quindi siamo stati tempestati di corrispondenza, i nostri indirizzi sono finiti online, quindi un criterio e modalità tutte discutibili. Discutibile anche il sistema di voto, perché se io ricevo per posta un plico, nessuno viene a verificare se a votare sia io o qualcun altro. È chiaramente un sistema da mettere in discussione per varie ragioni, per ragioni naturalmente di interesse che sta scemando, forse non c'è mai stato o ha interessato soltanto poche persone che continuano ad avere con l'Italia un rapporto secondo me molto colonialista da suddito, oppure gente che magari per ragioni personali vuole essere eletto e quindi ha interesse a rappresentare qualcuno, ma chi? Insomma, all'estero non penso ci sia tutta questa voglia di avere rappresentanti e tutta questa voglia di andare ad eleggere qualcuno. E dunque, Antonio Nicaso, metti il dito in un'altra delle piaghe di questo voto all'estero, cioè coloro che votano dall'esterno dei propri confini, per il proprio Parlamento, per il proprio Senato, per il proprio Congresso, nel caso dell'amico americano oggi con noi, comunque si limitano a effettuare una scelta in quelle che sono le liste a disposizione anche dei cittadini che vivono nella nazione. Gli italiani no, gli italiani vanno oltre e addirittura nelle circoscrizioni estere eleggono 6 senatori e 12 deputati che andranno a sedersi a Roma materialmente per votare, esprimere le proprie preferenze e dunque contare in qualche modo su tematiche che poi non li toccheranno da vicino, in quanto ricordo quando gli italiani all'estero furono chiamati a votare sulla procreazione assistita, per esempio. Poi ognuno dei parlamentari tornerà all'interno dei propri confini, in Canada piuttosto che in Sud America o nel resto d'Europa o nel Madagascar, e si sottoporrà, per quel che riguarda le proprie questioni personali o le questioni dell'elettorato, alle leggi nazionali. Per cui questi parlamentari, e ricordo bene, da cittadina canadese e con doppia cittadinanza a mia volta, il quesito che si pose anche all'inizio delle prime elezioni, hanno un problema di rappresentatività e di doppia lealtà, è stato detto ed è stato discusso diffusamente, Antonio. Sì, è chiaro, c'è un... Io metto subito in discussione il principio della segretezza, che secondo me è fondamentale, cioè io ho visto e ho saputo di faccendieri che sono andati in giro a raccogliere schede e hanno votato per decine e decine di elettori, spesso le schede sono arrivate all'indirizzo sbagliato, non c'è stata la possibilità di verificare l'anagrafe degli italiani all'estero. E poi il discorso, come dicevi giustamente tu, della rappresentatività. Io penso che sia assurdo eleggere dei rappresentanti degli italiani all'estero. Io ricordo il governo Prodi che si reggeva grazie al voto di un senatore argentino. Ora, con tutto il rispetto per il senatore argentino, che ha delle tematiche, ha delle problematiche tutte particolari in Argentina, però io non penso che sia giusto far dipendere dall'umore di un senatore argentino o un Parlamento italiano che deve eleggere e deve varare delle manovre, dei provvedimenti che riguardano gli italiani, non gli argentini. Che riguardano chiaramente il territorio italiano, perché poi va fatta una precisazione, ci scrive un ascoltatore: voto solo ai cittadini italiani, il resto non ha senso. Attenzione, coloro che votano dall'estero sono i cittadini italiani. Si chiede un altro che ci segue dall'estero: io risiedo fuori, perché dovrei votare in un paese dove non pago le tasse? Gli italiani all'estero, propone Giada, devono votare solamente nelle ambasciate oppure nei consolati, aggiungiamo noi, con un severo controllo dei documenti e dell'eventuale ripetitività del voto. Insomma, sono moltissime le riflessioni che arrivano su questa tematica. L'SMS, il numero, ve lo ricordo, 349-238-6666, e si apre il capitolo cruciale e della possibilità di voto e, se vogliamo, anche dell'interesse di chi risiede all'estero al voto, cioè il capitolo della cittadinanza. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Ritorniamo insieme, ancora buona giornata da Irene Zerbini. Abbiamo sentito tante motivazioni, tante spiegazioni e tanti, se vogliamo, tecnicismi, ma nemmeno poi potremmo liquidarli come tali, in quanto sono piuttosto sostanziali, sul perché questo voto degli italiani all'estero crea dei problemi. Ma c'è anche chi sta dall'altra parte, chi lo difende. Voglio dar voce in questo senso agli ascoltatori che stanno affollando le nostre linee. Alessandro, buona giornata. Benvenuto. Sì, buongiorno, buongiorno. Lei è a favore del voto degli italiani dall'estero, perché? Sì, io sono a favore, io ho vissuto parecchi anni all'estero e devo dire che secondo me è molto giusto, perché quando uno è cittadino italiano, anche se vive all'estero, secondo me ha tutto il diritto e il dovere di votare per il Parlamento del popolo, perché a questo popolo noi apparteniamo. Magari è diverso per l'amministrativa, infatti uno non vive il territorio e all'amministrativa non vota quando è all'estero, ma le scelte importanti di un Parlamento, anche perché poi uno in Italia torna, magari torna per farci vivere i figli, ed è giusto partecipare a quella che è l'espressione culturale e politica del popolo. Dove abitava lei, Alessandro? Io ero in Cina, sono stato in Cina un po' di anni, sì. E come ha capito la problematica e la modifica proposta da varie parti? Non è tanto sull'abolizione del voto all'estero, in quanto legato a doppio filo, giustamente lei lo sottolinea, la cittadinanza, che è piena solo in quanto consente l'esercizio del diritto di voto, ma sulle modalità di voto. E poi lei fa un altro riferimento, una distinzione dunque importante, che è quella legata a chi all'estero vive temporaneamente e chi invece dall'estero usufruisce di una cittadinanza in quanto figlio o nipote di italiani. E anche lì si apre un capitolo molto vasto e che andrebbe discusso. Invece voglio scomodare a questo punto da Düsseldorf Giuseppe Tizza, un insegnante che vive lì da 40 anni e che difende a sua volta il voto degli italiani all'estero. Perché, professore? Ma perché il voto degli italiani all'estero c'è stato sempre, non c'è stato bisogno di difenderlo, perché la legge italiana prevede il diritto di voto. Solo che prima bisognava tornare fisicamente in patria. Avevano diritto, erano cittadini italiani solo quelli che abitavano vicino al confine, mentre non erano cittadini italiani quelli che abitavano in Cina, come il caso dell'ascoltatore, o in Canada, come nel caso del nostro ospite nel caso. Quindi si avverava il fatto che la maggior parte, buona parte di quelli che abitavano in Europa votavano e quelli che abitavano più lontano no. Per quello no, che fa bene, lei fa bene a precisarlo. Allora, diciamo, la legge Tremaglia non introduce spesso si fa un po' di confusione il diritto degli italiani di votare dall'estero, ma il diritto degli italiani di votare dall'estero senza tornare sul territorio e per posta, e tra l'altro introduce, e questa è la novità assoluta, la possibilità di produrre dei deputati e dei senatori eletti nelle circoscrizioni estere, cittadini dell'Argentina piuttosto che del Belgio, del Canada, degli Stati Uniti, insomma di paesi che nulla hanno a che vedere con l'Italia e che spesso mancano anche di informazione specifica su quelle che sono poi le modalità di voto, di azione del parlamentare in Italia, e questo ha generato anche in passato diverse critiche e perplessità. Ricordo, vivendo in Canada, avendo gestito dei comizi elettorali, insomma, di questi signori candidati, per esempio, così per citare qualcosa di assolutamente estraneo alla politica, ma che era piuttosto tipico, insomma, in occasione delle prime elezioni di questi deputati e senatori, un candidato che si impegnava impegnò a far suonare più musica italiana se un giorno sarebbe stato eletto. Questo era il centro del suo programma elettorale. Faceva il disc jockey in una radio bilingue e si impegnò ufficialmente a far suonare più musica italiana, quando poi durante il dibattito si affrontarono tematiche più squisitamente politiche e specifiche, ammise candidamente di non saper nulla, di essersi candidato appunto perché la musica italiana avesse lunga vita anche all'estero. Ma al di là del folklore, diciamo così, Tizza, lei è molto attivo nella comunità degli italo-tedeschi, lavora nei comites e quindi rappresenta in qualche modo gli italiani all'estero. Qual è il sentore dei nostri connazionali in Germania? Difenderebbero a spada tratta questo diritto? Sono indifferenti? Come si sentono? Ma io volevo tornare all'argomento della segretezza del voto. Devi pensare che qui alle elezioni politiche, le ultime elezioni politiche, il 21% dei tedeschi per le elezioni politiche ha votato per lettera, per corrispondenza. Quindi lei non ci trova niente di strano, ma torniamo agli italiani che vivono in Germania. Secondo lei sono attaccati a questo diritto, sono indifferenti, partecipano, seguono la vita politica italiana? Per esempio, in che percentuale hanno votato all'ultima tornata elettorale? Ma la percentuale, tenuto conto del fatto che delle difficoltà ci sono state, della confusione dovuta all'amministrazione e non all'elettore, direi che è molto alta, se poi si pensa che in America... Cioè? Mi pare che si sia arrivati sul 50%, adesso non ricordo la percentuale, comunque ricordo benissimo che le percentuali sono accettabili per quello che, per come sono andate le cose. Quindi secondo lei questo è un segno di partecipazione, di legame ancora vivo tra gli italiani che vivono in Germania e di volontà di difendere questa legge Tremaglia, secondo lei, Tizza? Sì, sicuramente, ma anche perché l'italiano in Germania vive con un piede in Italia e un piede qui in Germania. Le distanze lo consentono. Sì, molto spesso, forse più informato della media italiana, direi, perché mentre l'italiano che... paragonato all'italiano che proviene dalla stessa regione, dallo stesso paese, quello che vive in Germania, anche perché confrontando gli sistemi, politici, eccetera, è più informato, direi, in genere, mediamente, che colui che si chiude, si incapsula nel suo appartamento, non ha nessun contatto, ma poi in genere direi che è più informato. Io per esempio sono più informato dei miei compagni, ex compagni di scuola, sono più politicamente attivo e così via. Lei ritiene che la sua situazione, il suo interesse sia piuttosto diffuso tra coloro che vivono in Germania. Quindi abbiamo raccolto anche questa testimonianza. Ricordiamo che il fattore emigrazione-immigrazione a volte è con termini ribaltati, nel senso che gli italiani, 60 milioni all'estero e fuori dai confini, oggi hanno a loro volta... e si confrontano con delle realtà di stranieri all'interno dei propri confini. Cosa fanno le comunità che affollano l'Italia? Per esempio, una delle più numerose, la comunità filippina, permette ai propri filippini che vivono in Italia di votare? E se sì, con quali modalità? L'abbiamo chiesto al viceconsole filippino Gerardo Abiog, vive a Milano, sentiamolo. The system is called overseas absentee voting. Il sistema è chiamato Overseas Absentee Voting. Consente cioè ai filippini che vivono all'estero di esprimere la loro preferenza nei nostri appuntamenti elettorali. Noi possiamo votare solo per alcune posizioni, per il presidente, il vicepresidente, i senatori e i membri del Parlamento. Non possiamo votare nelle elezioni locali, solo in quelle nazionali, che si tengono ogni 3 anni. Le procedure di voto in ogni paese sono diverse. C'è il voto postale e dunque si riceve la scheda a casa e deve essere rispedita allo stesso modo. Oppure si può votare di persona andando all'ambasciata o al consolato filippino. Lì si ritira la scheda e si vota sul posto. Il diritto di voto per i filippini all'estero è stato concesso su richiesta dei diretti interessati, che hanno insistito davvero molto per ottenerlo. Abbiamo ottenuto il diritto di votare dall'estero per la prima volta nel 2004 e l'affluenza è stata del 50% degli aventi diritto, decisamente molto alta. 50%, which is very high. E c'è infatti in chi vive all'estero a volte, come ci ha raccontato anche dalla Germania il professor Giuseppe Tizza, un interesse, una volontà di seguire le vicende anche italiane. Questo non significa che però la legge elettorale legata alla cittadinanza e quindi che permette la possibilità di esercitare il voto non vada modificata, così da tutelare da frodi, imbrogli piuttosto prevedibili anche al momento della genesi, e l'abbiamo ricordato insieme. Con noi è stato Antonio Nicaso, che ringrazio per il suo tempo, giornalista e professore universitario, vive in Canada ed è in Italia per presentare La Malapianta, il libro con Nicola Gratteri. Ringraziamo anche il corrispondente del Wall Street Journal Aaron Mains, Gerardo Biog, viceconsole filippino a Milano, Peter Bescapé in regia, Sara Spreafico, assistente per questa trasmissione. Voi continuate a votare all'indirizzo www.radio24.it fino alle 13, e da Irene Zerbini l'augurio di una buona giornata.